Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, giovedì 26 marzo del 2015, 87.9 la modulazione di frequenza. Per quanto riguarda le informazioni e la scaletta di oggi, potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, e lì trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 26 marzo, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e Provincia, il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2015. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Eccoci in collegamento con Irene Tomio per parlare della distribuzione in sala dell'Ultimo Lupo di Jean-Jacques Annaud, da oggi giovedì 26 marzo nelle sale. Irene, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, per chi ci ascolta, di cosa si tratta? Cos'è? Raccontiamo brevemente la trama. Allora, è ambientato innanzitutto in Mongolia, racconta di un giovane studente di Pechino, Chen Zhen, che va in Mongolia, nella steppa, per occuparsi dell'istruzione dei bambini di una tribù nomade di pastori, e si trova a confrontarsi con una realtà, seppure vicina, ma molto diversa. Quindi impara a conoscere la cultura del popolo mongolo e quanto sia importante e fondamentale il lupo, quasi come appunto un totem nella cultura mongola, per la vita e l'equilibrio di tutta la steppa, sia di uomini che di animali. Chen Zhen decide di catturare un cucciolo di lupo e addomesticarlo per poter conoscere questo animale così affascinante più da vicino, per poi rendersi conto di quanto invece il lupo abbia bisogno della sua libertà, e quindi lo libera. Non è la prima volta che Jean-Jacques Annaud si occupa di animali, tra l'altro, sul grande schermo, in grandi storie anche d'avventura. Assolutamente no. Jean-Jacques Annaud, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Roma per presentare il film, assolutamente ha questa visione nel suo cinema molto particolare, dove convinto che l'uomo innanzitutto è un animale, ha deciso di mettere in scena gli animali protagonisti con il loro punto di vista. Lo ha fatto con 7 anni in Tibet, con le tigri, con l'orso, con l'altro suo film importantissimo, e adesso con i lupi, che ci diceva lui stesso essere forse l'animale più affascinante, sebbene anche le tigri e l'orso abbiano la loro bellezza. Siamo in periodo di rivoluzione culturale cinese, anche in questo caso gli equilibri naturali messi in crisi dalla presenza umana. Sì, diciamo che non a caso ha scelto di raccontare non l'epoca attuale in Mongolia, dove anche lì molte cose sono cambiate rispetto ad oggi, e lui ha potuto testarlo con mano, perché il lavoro su questo film è durato addirittura 4 anni, il lavoro di preparazione. Lui ha voluto comunicarci un messaggio raccontando la Mongolia del periodo della rivoluzione culturale, quando appunto c'era un rispetto della natura e si comprendeva anche quanto l'uomo avesse bisogno di vivere in simbiosi e in accordo con la natura. Questo purtroppo non accade qui da tantissimo tempo, ahimè non accade più in Mongolia, e quindi è proprio questo messaggio di emergenza, di riportare l'attenzione su quanto noi dobbiamo essere attenti alla natura e gli altri esseri viventi che ci circondano, e lui ha scelto di farlo in questa maniera. Altra cosa importante che ci tengo a dire è che il film uscirà anche in Italia, anche in 3D. Sì. È la prima volta che Jean-Jacques Annaud si cimenta con il 3D e devo dire che il risultato è veramente eccezionale, proprio per la resa della vicinanza che hai con il rapporto tra l'uomo e il lupo, ma non solo, perché ci sono delle scene anche bellissime con cavalli. Non vi anticipo questo. Sì. Tra l'altro si tratta di una grossa produzione, per cui è anche un piacere per l'occhio, insomma, soprattutto per le vaste distese della Mongolia. Ci sono dei panorami immensi e anche resi bene fotograficamente. Sì, assolutamente sì. Ci tengo a dire che il film è un film sicuramente di qualità, come Jean-Jacques Annaud è abituato, insomma, a proporci, ma è anche un film che parla al grande pubblico, perché comunque tratta di una storia di amicizia tra uomo e animale, una storia di avventura. Di avventura che non manca, ci sono delle scene di azione molto molto belle e quindi insomma credo che possa accontentare un po' tutti, sia il pubblico cinefilo che ama i film di autore, ma anche il pubblico più ampio che ha voglia di vedere comunque dei bei film. Sì, tra l'altro ecco, c'è anche un grosso rispetto verso le culture tradizionali, in questo caso quella mongola dei pastori nomadi. Volevo chiederti, in quante copie esce da oggi? Il film uscirà in 315 copie. Insomma, quindi un'uscita importante. E siamo molto contenti, insomma, di tutto il lavoro fatto sul film, di essere riusciti a portare a noi qui in Italia, che insomma con grande piacere ed entusiasmo ha raccontato tantissimi aneddoti sulle riprese, sul suo rapporto coi lupi, devo dire veramente un lupi mongoli, una bella esperienza. Assolutamente sì. Bene Irene, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao. Irene Tomio, per quanto riguarda la distribuzione in sala dell'Ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud, da oggi giovedì 26. Coi germi, cioè mi sta venendo un raffreddore coi fiocchi. Da te sarei pronto a prendermi anche un cancro. E non sfidare il cielo. Perché mai? Ho già sfidato la terra e mi ospita ancora. Il nostro partito, elettori, qui apre il suo programma. Il nostro programma prevede, come sapete, l'eliminazione dei costi dei tagli sulla cassa integrazione contro il 4% della riduzione dell'IRPEF, sul costo del denaro pubblico per l'introduzione in Italia dell'Europa, contro una politica per la disoccupazione giovanile del mezzogiorno e riportare le medie e piccole imprese al tasso del 6% sopra l'emendamento della contumacia, perché noi siamo sempre stati chiari e vorremmo la chiarezza anche nell'avversario. Grazie della fiducia, elettori, grazie. Questa sì che è bella. Ha sempre voluto diventare poliziotto. C'era tagliato. Non ha voluto arrendersi. Veniva sempre da me. Voglio diventare poliziotto, zio. Tutti in famiglia sono poliziotti, zio. Voglio diventare un poliziotto. Provavo pena per lui. Noi siamo per il lavoro. Privatizzazioni. Privatizziamo il debito pubblico. Chi se la colla? Avanti, voglio vedere. Noi amiamo il lavoro. Io starei ore a guardare la gente che lavora. Guarda che tipo sono io. Elettori, insomma, votate per me. Datemi il potere. Fatemi governare per 5 anni e vi do il 10%. No? Votate, votate, votate. Bene, ora invece l'intervento registrato con Georgette Ranucci per quanto riguarda la distribuzione del film Lettere di uno sconosciuto di Zhang Zhimu, distribuito dalla Lucky Red, da oggi anche questo nelle sale. Giorgette Ranucci della Lucky Red per parlare di un film in uscita proprio giovedì, Lettere di uno sconosciuto di Zhang Jimou. Giorgette, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben trovati anche a voi. Allora, per chi è all'ascolto, raccontiamo brevemente la trama di questo film. Questo è un film che racconta di una coppia che si amano molto, unita, ed è costretta a separarsi quando lui viene arrestato e mandato in un campo di lavoro come prigioniero politico. Stiamo parlando della Cina, stiamo parlando degli ultimi giorni della rivoluzione culturale. Poi finalmente lui riesce a tornare a casa e dopo 10 anni, sì. Tornando a casa scopre che la moglie che lui ama moltissimo è come colpita da un'amnesia e non ricorda più lui, non lo ricorda fisicamente, però lo ricorda assolutamente col cuore, con l'affetto e con l'amore. Tant'è vero che riceve una lettera dove lui gli preannuncia il suo arrivo alla stazione il 5 del mese, e per tutto il film, quindi per più di 20 anni, lei tutti i 5 del mese va alla stazione per incontrarlo. Lui c'è, lei non lo riconosce e ritorna a casa. È un film, secondo me, struggente, un gran melò che riporta Zhang Jimou ai suoi primi successi, Lanterne Rosse, ed ha soprattutto una protagonista che ritorna con Zhang Jimou dopo molti anni, che è Gong Li, che con molto coraggio e con molta bravura si cimenta in un personaggio che non è più un personaggio di bellissima donna, di star riconosciuta della Cina, ma di una donna disperata, colpita chiamiamola una vecchiaia precoce, e da questo suo ricerca assoluta nell'incontro, nell'amore del marito. Mm-hmm. Giorgette, per quanto riguarda la firma, ecco, Zhang Jimou, il regista cinese più conosciuto di sempre, almeno in Italia, e Gong Li, anche l'attrice più nota da noi. Devo dire che è un film molto molto al femminile, è un film che probabilmente tutte le donne ameranno, nel senso che l'amore che c'è e che non si riconosce è questo andare continuamente a un incontro che poi non è un incontro, ma con la passione, la pazienza e l'amore di questo marito che si sottopone a questa drammatica vita pur di starle accanto. Uno degli elementi il più cruciale, che probabilmente è quello che rende anche questa storia universale, è quello dei sistemi politici e di governo in cui il potere esercita un controllo capillare su ogni singolo e singola, e in questo subentra il meccanismo terribile, devastante della delazione, che non funziona solo tra conoscenti, ma arriva a distruggere anche i vincoli di sangue in famiglia. In questo caso, come dicevi tu, una storia al femminile che riguarda soprattutto, per le scelte, la madre e moglie e la figlia. Sì, certamente. Racconta con una, se vogliamo, anche con una leggerezza il momento tremendo della rivoluzione culturale, e soprattutto il fatto che questo quest'uomo, che peraltro era un intellettuale, un professore, viene mandato in questo campo di lavoro come prigioniero politico, e che al suo rientro, quando finalmente è tutto finito, trova però da parte delle istituzioni una certa solidarietà, cioè gli trovano una casa vicino alla casa della moglie perché potesse ogni giorno andare a trovarla. E soprattutto nel film c'è anche una figura molto ambigua, che è la figlia, cioè la figlia in qualche modo denuncia il padre che un giorno è riuscito a scappare e per ritornare a casa ed incontrare la moglie. Lei lo intravede e lo denuncia perché ha paura che, naturalmente, essendo lui un prigioniero politico, potesse in qualche modo ostacolare la sua carriera di danzatrice. E questo è il racconto di Zhang Zhimou, con pochi accenni, dà comunque un quadro della Cina di quegli anni molto vero, molto crudo. Georgette, per quanto riguarda la scelta distributiva, e come vi siete innamorati di questo film e poi come lo avete deciso di portarlo in sala qui in Italia? Questo film peraltro è passato a Cannes fuori concorso, sì, ed è stato visto qualche mese prima, e l'innamoramento è proprio quello del ritorno di Zhang Zhimou a una storia d'amore. Andrea è rimasto molto, Occhi Pinti è rimasto molto colpito da questa storia. Io, quando l'ho visto, ho concordato pienamente con lui. Certamente è un film grandissimo ma piccolo a livello distributivo, in un mondo dove poi vincono solo i campioni di incasso di commedie o di film americani. Io credo che questo uscirà con 45 copie, quindi non con una grande distribuzione, ma uscirà nelle sale giuste, dove io credo che ci sia ancora un pubblico disposto a sedersi, a guardare lo schermo e a innamorarsi di una storia senza tempo. Mm-hmm. Senti, per quello che ne sai, Georgette, qualcosa sulla genesi del film, e sai come è nato, come è stato pensato da Zhang Zhimou? No, io credo che Zhang Zhimou pensasse a questo film da molto tempo, e per ritornare, diciamo, a un film piccolo dopo i successi grossi commerciali come La foresta dei pugnali volanti, come La città proibita, e questo film è stato come un ritorno alle sue origini, alle origini di Sorgo Rosso, se vuoi, di Lanterne Rosse, e soprattutto il felice rincontro con Gong Li. Sì. Georgette, io ti ringrazio. Ricordiamo Lettere di uno sconosciuto da giovedì 26 marzo nelle sale, e a risentirci presto. Bene, questa era Georgette Ranucci per quanto riguarda la distribuzione della Lucky Red del film Lettere di uno sconosciuto di Zhang Zhimou. Questo film invece è uscito una settimana fa. Ne parliamo con Laura Bispuri, che ne è la regista. Stiamo parlando di Vergine Giurata. Laura, benvenuta, anzi ben ritrovata. Ciao, a Visionari. Ciao a tutti. Come stai? Ciao. Bene, bene, sono su un treno, quindi spero che non cada la linea, ma sono qui per voi, con voi. Benissimo. Senti, allora, cominciamo da questa prima settimana di programmazione. Che mi dici? Ma dico bene, nel senso, sto ricevendo tantissimi messaggi continuamente di persone, appunto, che non conosco, che rimangono molto colpite dal film, molto coinvolte. abbiamo avuto una media copia interessante. E insomma, siamo abbastanza contenti. Al momento in quante copie, in quante sale? Allora, il film è uscito, distribuito da Istituto Luce, 33 copie. 33. Chiaramente la sensazione generale è un po' comunque di un film che appunto è stato a Berlino in concorso, adesso andiamo all'estero, c'è tanto entusiasmo, c'è una sensazione che in Italia comunque è tutto un po' più lento e faticoso rispetto a fuori, questo sì. Lo devo dire, sì. Sì. Però insomma nel nostro piccolo percorso di questa settimana ci ho anche avuto tante soddisfazioni. Oh, per chi ha l'ascolto, qualche indicazione di massima sulla trama, cos'è Vergine Giurata? Vergine Giurata è un film sulla libertà, è un film che racconta appunto la storia di una vergine giurata, ossia di una creatura che nasce sulle montagne del nord dell'Albania, una donna che secondo la legge di quelle montagne priva di ogni diritto, perché le donne in quel luogo non hanno i diritti più semplici come anche quelli più complessi, ha la possibilità di diventare un uomo, quindi di vestire i panni maschili, di tagliare i capelli, prendere il nome di un uomo, e però per questo deve rinunciare all'amore e al sesso per tutta la vita. Mm. E noi raccontiamo la storia di una vergine giurata che in realtà viene in Italia e fa tutto un percorso per riprendere la sua parte femminile. E questo è la trama in poche parole del film. Sì. Senti Laura, tra l'altro è il secondo film in sala in questo periodo in cui c'è il nuoto sincronizzato e delle adolescenti. Sì, io in realtà non l'ho visto, Cloro, non so nulla di questo film. Però specialmente nel tuo caso mi sembra che il nuoto sincronizzato abbia la funzione di ruolo di controllo e consapevolezza del proprio corpo. Sì, diciamo appunto in fase di sceneggiatura la scelta di questo sport aveva un senso profondo per me e per noi, per la sceneggiatrice con cui lavoro, Francesca Manieri, ed era un discorso diciamo su un femminile che ha due livelli. Un primo livello appunto è questo impatto visivo che ha il nuoto sincronizzato, cioè di queste ragazzine che sono truccatissime, che devono sorridere in acqua, che hanno a che fare con un'immagine della femminilità che risponde a una bellezza, a una perfezione, come se questi fossero insomma gli unici valori in Occidente da noi riconosciuti per una donna, e quindi rappresenta una sorta di gabbia rispetto ai valori appunto occidentali rispetto al femminile, e quindi c'era un discorso di gabbia a specchio con il personaggio di Mark, che è la nostra protagonista, e poi forse è questa appunto fatica sempre delle donne, che spesso è una fatica invisibile che non si vede, e come il nuoto appunto, che è uno sport bellissimo, sincronizzato, la fatica spesso è sott'acqua e quindi non si vede, ecco. Mm-hmm. Quindi c'è una serie di metafore, di simboli visivi rispetto, sì, a tanti discorsi che il film ha. L'origine di questo film, Laura? L'origine è ispirata a un libro di Elvira Dones, edito Feltrinelli, per cui tutto è partito da lì. Poi il film è liberamente ispirato, per cui c'è stato un grande lavoro di sceneggiatura, durato 3 anni e mezzo, e insieme ai miei continui viaggi in Albania per approfondire personaggi e quella cultura, e soprattutto è nato dal libro, sì. Ho una comunità molto chiusa su se stessa, fa impressione per esempio il rito del funerale. Sì, quello è un rito funebre, si chiama il rito del Giama, e io ho visto un documentario di Paola Piacenza che racconta appunto di questo rito funebre, mi sono appassionata, quindi l'ho contattata, e poi ho cercato io stessa di raggiungere tutti questi uomini che fanno il Giama, che sono proprio degli uomini che non appartengono alla famiglia ma che vengono chiamati per salutare un uomo del villaggio che secondo loro ha una certa importanza, che muore. E la cosa... Proviamo forse fra un po' a richiamarti, Laura? Massimo Abete della Kami Movie sulla distribuzione del film French Connection in uscita in sala oggi giovedì 26 marzo. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto a te e benvenuto a tutti i radioascoltatori. Una piccola e piccolissima precisazione, non è Abete, è Abate, anche se Abete va bene comunque che c'è un... No, ho proprio sbagliato la lettura perché è scritto bene, è stato un errore tutto mio, insomma. Era per ridere. Allora Massimo, diamo qualche elemento di trama a chi ci ascolta. La French Connection è tratto da una storia vera, interpretato dal regista che è Cédric Imenech, che tra l'altro è un prospetto futuribile perché è alle sue prime esperienze, però ha una capacità innata molto molto importante, e narra delle vicende del giudice Pierre Michel, che è interpretato da Jean Dujardin, che è in diretta contrapposizione con Gaetan Zampa, che è il capo del clan dei Marsigliesi, cupola che la faceva per la maggiore all'epoca rispetto al mercato planetario dello spaccio dell'eroina. Tra l'altro di origine napoletana. È stato in America. Tra l'altro di origine napoletana Zampa. Certamente sì. E infatti c'è un passaggio anche nel film di richiamo su queste sue origini napoletane in uno sketch divertente da non perdere, che richiama anche questa sua napoletanità. Oh, per quanto riguarda un prodotto di così ampio respiro europeo, mi sembra che tra l'altro il regista piuttosto giovane abbia già una buona padronanza del mezzo, è girato con molta abilità tecnica, c'è un'accurata ricostruzione storica e c'è anche un grande uso della colonna sonora. Vero. C'è un'ambientazione importante a Marsiglia con degli squarci paesaggistici molto belli. È un rifacimento quasi perfetto, oserei dire, delle ambientazioni dell'epoca, siamo negli anni 70. Tra l'altro il vero filo conduttore di questo film è un omaggio alla vita di un eroe, che era il giudice Pierre Michel, che tra l'altro ha grandissime assonanze con i nostri di eroi, con Falcone e Borsellino, e tra l'altro con Falcone negli ultimi anni della sua vita Michel ci ha anche collaborato per un'indagine che stavano portando avanti insieme, che riguardava il traffico di droga in Calabria. Le ambientazioni sono molto belle, sono aiutate tra virgolette da una colonna sonora adrenalinica, che è il giusto condimento di un film dagli alti contenuti storici e rispetto a come vi dicevo al tributo per una persona che in Francia è stato un eroe e si è immolato alla spare della lotta alla malavita. Senti, per quanto riguarda il titolo, il richiamo è un film che fece grande successo all'epoca, che è Il braccio violento della legge, ma che non ha alcuna altra vicinanza oltre al titolo, e comunque al centro c'è la piaga di quel decennio degli anni 70, ma non solo. Marsiglia era l'epicentro dello smercio internazionale soprattutto dell'eroina, che andava in tutta Europa, ma non solo, perché poi arrivò e fu un flagello anche per gli Stati Uniti. Con The French Connection del 71 il film ha poco a che vedere, perché lì era una riproduzione virtuale, era una trama che non rispecchiava fedelmente quello che era successo. Della French Connection, come detto, è tratto da una storia vera, e tra l'altro c'è stata una scelta collegiale di chiamarlo Connection, se, per farci una risata, se fosse stata mia autonomia scegliere il titolo in diciamo in concertazione con il produttore francese che è Lagomon, l'avrei chiamato La French e basta e non La French Connection. Quindi c'è un richiamo forte a quelli che furono gli accadimenti dell'epoca in cui i marsigliesi in modo molto molto violento la facevano per la maggiore, però è un inno a non mollare questo film. Cerca di smuovere le coscienze prendendo come spunto la schiena dritta di Peter Michel, che fa come ragione di vita quello di sconfiggere il traffico dell'eroina che era gestito dall'Aurora Zampa per difendere i propri ideali, soprattutto perché lui veniva dal tribunale dei minori, insomma vedeva che effetti devastanti produceva su quella generazione il flusso di eroina che inondò il mondo in quel periodo. E volevo chiederti, Massimo, anche rispetto all'uscita, quante sono le copie per French Connection? Sono 210 e sono distribuite in modo omogeneo lungo tutto il territorio della nostra penisola italiana. Si è già partiti perché i primi spettacoli erano previsti per le 14, quindi siamo nelle sale. Benissimo. Il film racconta un piccolo aneddoto rispetto a quello che è stato lo scouting del film all'epoca per la distribuzione in Italia. Io personalmente ero in scouting su tutt'altre pellicole, però per caso ci capitò questa French Connection, eravamo a Cannes, che su un trailer di 15 minuti che arrivò così quasi per scrupolo ci fece guardare in faccia a me e ai miei che eravamo lì: questo è il film giusto. Su 15 minuti l'ho scelto quel film mentre cercavo tutt'altre cose. E tra l'altro questo film, la French Connection, segna l'ingresso nel mondo della cinematografia della nostra casa di distribuzione, che si chiama Kami Movie, che è a braccetto per questi primi progetti con La Medusa, che si sono rappresentati con noi come i fratelli maggiori che ci stanno conducendo nel mondo della cinematografia in quanto noi neofiti. E lo scopo di questo nostro ingresso nel mondo della cinematografia, come detto, è quello di cercare di discostarci un attimo dai prodotti che stanno contaminando, secondo noi, il cinema italiano, perché di riproduzioni fantastiche e virtuali ce n'è tantissime, di contenuti pochi. Quindi noi siamo in antitesi alle major e cercheremo di proporre al nostro pubblico un cinema di qualità, ma che sia popolare allo stesso tempo. Tra l'altro stavo leggendo, rispetto a French Connection mi è venuto in mente anche adesso, parlando con te, un curioso cortocircuito, perché a detta del regista il boss illustrato nel film era un loro amico di famiglia, un suo amico di famiglia. È così. Tra l'altro nelle riprese che sono state fatte che sono state girate l'anno scorso in Francia e a Marsiglia erano presenti sia la moglie che i figli, perché Zampa è morto suicida nell'84 in carcere. E la cosa strana è stata che il rapporto con la famiglia del presunto boss, perché tra l'altro Zampa poi non è mai stato condannato per spaccio internazionale di droga, ma era in carcere per tutti altri accadimenti e per altre imputazioni, sono stati lì quasi come i primi tifosi del film in sé per sé, cosa che ci fa sperare bene rispetto a quello che è un'inversione di tendenza della famiglia stessa del pregiudicato che è raccontato nel film di Cédric Jiménez. Massimo, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Va bene, grazie a tutti voi e mi raccomando, French Connection è in sala, sono 2 ore, speriamo che andiate a vederla e che passiate dei momenti belli insieme. Ciao Massimo. Arrivederci. Massimo Abate della Kami Movie sulla distribuzione del film French Connection in uscita in sala oggi giovedì 26 marzo. Voglio parlare chiaro, sto a letto con te da 6 ore e mi sono già stancato. Davvero? E ti sentirai ancora peggio se ti azzardi a buttarmi giù. La classe operaia va a ballare. Ma quando la moglie della fu classe operaia chiede i soldi per andare a comprare l'osso buco, chi glieli dà? Agnelli. Agnelli? Sì. Fiat, Agnelli, perché il plus valore prodotto dalle macchine che producono le macchine, il 50% se lo becca lui, ma l'altro 50% ce lo deve dare a noi. A voi, gratis, d'amore, se perché? Primo, perché ci facciamo un culo così, che ci facciamo saltare la fabbrica. Chi sono fatto questo federale? Iniziato a consacrare, legittima difesa. Ed eccoci con Francesca Manno di Minerva Pictures sulla distribuzione del film Becas, In viaggio per la felicità, in uscita in sala anche questo oggi giovedì 26 marzo. Francesca, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli amanti del cinema che sono in ascolto. Sì, come dicevi, il film Becas è in uscita oggi in varie sale e ti racconto un po' di la storia di questo piccolo gioiellino, sì, come amiamo definirlo. Sì, diamo qualche indicazione a chi ci ascolta, chiaramente. Esatto. Dunque, ci troviamo nel Kurdistan iracheno e siamo nei primi anni 90 e Zana e Dana sono due fratellini che hanno rispettivamente 7 e 10 anni e sono due fratelli orfani che sopravvivono in strada lucidando scarpe ai passanti e un giorno sbirciando attraverso un buco nel muro di una sala cinematografica i due bimbi vedono in azione Superman e vengono da subito sono attratti e colpiti, diciamo, dalle gesta di quest'eroe eccezionale e decidono di andare in America per incontrarlo. Quindi con in mano una lista di cattivi da punire, da consegnare a Superman, Zana e Dana si procurano un asino al quale poi daranno il nome di Michael Jackson e iniziano questo viaggio, insomma questa traversata nel deserto. E poi non vi racconto oltre perché non voglio togliere il gusto di poterlo vedere al cinema, insomma, agli ascoltatori, che mi auguro saranno tantissimi anche gli spettatori che potranno godere e apprezzare il film che noi amiamo tantissimo. Senti, un clima, un'atmosfera fantastica legata soprattutto alla fantasia dei due giovanissimi protagonisti, però si vede anche la povertà in cui si trovava il paese all'inizio degli anni 90 e si vede anche il mercato degli uomini, dei viaggi, della speranza che anche allora, insomma, era fiorente. Esatto, tra loro c'è questa fantasia e realtà, una fiducia. Noi riusciamo a vedere attraverso gli occhi di questi due bambini una realtà fatta di armi e fatta di miseria, per cui è pazzesco ed è fantastico il modo in cui il regista Karzan Kader è riuscito a trasmettere con la regia di questo film. Insomma, è stato assolutamente è un film molto apprezzato a livello internazionale e finalmente noi riusciamo a farlo arrivare in Italia con 3 anni di ritardo, dopo un rapido passaggio che è stato fatto al Giffoni Film Festival nel 2013 e arriva proprio in un momento in cui il tema trattato, quindi insomma la situazione politico-sociale del Kurdistan iracheno è di nuovo sotto i riflettori della stampa, insomma dei media, anche per ragioni purtroppo diverse. Purtroppo in realtà sono ragioni, al nemico di quegli anni 90 si è, a Saddam Hussein si è sostituita la minaccia dell'ISIS, per cui insomma sempre un fondamentalismo cieco e anche più violento di quello degli anni 90 forse. È ispirato anche alla sua esperienza, perché Karzan Kander è fuggito dal Kurdistan iracheno che è all'inizio degli anni 90, quindi era sotto il regime di Saddam Hussein. Esatto, sì, se non erro è andato via nei primi anni, aveva 6 anni, lui è andato via con la sua famiglia e proprio ha sviluppato una sceneggiatura che è stata adattata prima tradotta in un cortometraggio, se non ricordo male, nel 2010, e poi è approdata in un lungometraggio, insomma, che è quello che noi promuoviamo. È incredibile anche la bellezza della fotografia di questo film, cioè siamo immersi in una fotografia che vira al giallo, al rosso, a colori caldi che ci raccontano quel territorio, quell'ambientazione, insomma è veramente poetico. E quando io credo che quando si è costretti a crescere appunto tra armi, miserie e povertà, poi l'immaginazione e la fantasia dei bambini sia molto forte, molto vigorosa, quindi è un messaggio molto bello quello che il film vuole dare, e crediamo anche molto nel valore didattico, nel potenziale didattico del film, e speriamo che insomma anche molte scuole decidano poi di farlo vedere agli studenti, perché è un film che merita assolutamente. Tra l'altro il primo film di Kader che arriva qui in Italia, volevo sapere in quante copie esce oggi? Allora, guarda, ad oggi abbiamo circa 15 sale confermate sul territorio nazionale. In realtà oggi usciamo al cinema Mezzano di Agrigento, e poi uscirà ad Ancona, Trieste, a Roma il 30 e 31 marzo, e poi andremo a Firenze, a Pisa, a Padova. Un po' in tutta Italia, insomma. Sì, un po' in tutta Italia. Poi insomma, il nostro gruppo non è affiliato a sale o circuiti di esercenti con peso specifico sul mercato nazionale, per cui siamo dei veri indipendenti a tutti gli effetti, e sai, la difficoltà del far circolare anche dei film così piccoli, talvolta anche a noi operatori, insomma, certe dinamiche distributive ci sfuggono sulle uscite in sala, per cui abbiamo deciso di puntare anche molto sui canali alternativi, i canali digitali, e il film sarà disponibile poi in aprile su iTunes e su varie piattaforme di video on demand. Abbiamo avuto un ottimo riscontro anche dalla visualizzazione del trailer che abbiamo messo online circa 2 settimane fa, quindi questo ci fa ben sperare. Come dire, percorriamo una strada che non è semplice, perché un certo tipo di cinema fa molta fatica ad essere distribuito, però crediamo molto in questo film, e a noi piace chiamarlo un piccolo film dal cuore grande, perché è veramente una storia che fa riflettere non solo i bambini, ma fa riflettere molto di più noi adulti, quindi spero che insomma possa essere visto da tutti e dalla maggior parte degli spettatori e degli amanti del cinema. Francesca, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio, a prestissimo, un saluto a tutti. Francesca Manno di Minerva Pictures sulla distribuzione in sala del film Becas in Viaggio per la felicità, in uscita in sala oggi giovedì 26 marzo. Ma che sei, diventati matti? Ah, ce stavamo giocando. Andate a giocare col secondino. E qui non si può giocare. L'altro anno mio fratello per giocare ne ha strozzato uno. Bertucci, smettetela, che lo dica a vostra madre. No, io dico che no. Loro solo dalla madre ci hanno paura. Che cosa sei, CIA, mafia? Tutte e due. Avete 2 ore di tempo per sgombrare. Ma che te sgombri, oh, ma che è ma? E noi non ce ne andiamo! Massimo Ivan Falsetta, regista del docufilm On the Road, scritto On the Road, in uscita in sala oggi giovedì 26 marzo. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie ed eccoci qua. Grazie a voi per l'invito. Io l'ho chiamato docufilm, non so se sei d'accordo. Ah, bella domanda. Sì, sai, quando ti dicono di mettere genere in genere ne devi dare appunto una, scusami il gioco di parole, ne devi dare appunto una, e io ho dato docufilm, anche se sarebbe film docu, nel senso che c'è una predominante parte di finzione all'interno del mio film, quindi una storia inventata, un pretesto, diciamo così, per inserire invece una parte documentaristica reale a servizio di questa parte di finzione. Quindi la parte di finzione scorre in base alla parte documentaristica, quindi non è solo un documentario vero e proprio, ma ci darà le nozioni di un buon documentario, almeno spero, ma soprattutto credo che riuscirà a colpire lo spettatore per questa trama di finzione immaginaria che ho voluto dare, quindi utilizzare due escamotage per uscire dalla sala divertendosi principalmente, ma imparando qualcosa e ricordando un periodo storico bello e di libertà della nostra nazione. Ecco, proprio a questo proposito, un emittente come Radio Onda Rossa non poteva non interessarsi alla stagione delle radio libere, nello specifico poi in Calabria. Raccontaci un po', Massimo. Guarda, io ho scelto la Calabria perché, sai, serviva una terra ostica per la parte di finzione innanzitutto, perché comunque c'è una speaker che in onda l'etere di musica di repertorio degli anni 70-80, di trasmissione di repertorio, deve essere cercata dalla censura futuribile, quindi serviva un covo, diciamo, per questa speaker. Però e soprattutto invece in funzione del documentario che ho scelto la Calabria, perché in quella terra non ti aspetti che avvengano dei fenomeni come quella delle radio libere. Si pensa sempre che sia l'ultima della classe, invece così non è, perché negli anni 70, negli anni 80 invece esplosero le radio libere in Calabria. Fu quasi la seconda regione per numero di radio dopo la Lombardia, ufficialmente la Lombardia ad aver dato voce alla prima radio libera, però ti posso garantire che in Calabria c'è chi mi ha detto che già c'erano i primi esperimenti. Purtroppo non l'abbiamo potuto documentare, però prendiamo anche per vero diciamo quello che mi hanno detto, diciamo così, e quindi sai, partire dalla Calabria, dalle radio libere, da un popolo che per emanciparsi si lanciava nell'etere contro tantissimi ostacoli rispetto magari ad una regione un pochino più fortunata, ho scelto di inserire proprio lei, al di là che io sono comunque calabrese, contento di essere tale. Amando la mia regione non ho potuto fare a meno che sommare tutti questi elementi e scegliere come location ideale per questo progetto la Calabria. Massimo, di questa memoria, di questo archivio, di quella stagione, c'è una fruibilità? I giovani possono sapere cosa è successo? È una cosa complicata, nel senso che mi dispiace per due fattori. Chi aveva il materiale di repertorio per 2000 vicissitudini lo ha perso, per vita personale, perché i nastri sono andati persi, si sono smagnetizzati, motivi fisici, intemperie, qualunque cosa. Noi ne abbiamo recuperati alcuni, infatti nel film ci sono tutti spezzoni rigorosamente originali di quegli anni, tanti altri ce li ho io in archivio, ci sono anche dei siti dedicati alle radio libere dove ci sono delle ottimissime trasmissioni di repertorio. Altre purtroppo, pensa, furono obbligate a distruggerle, perché molte radio chiuse per esempio dalla polizia, dagli organi di Stato, a seguito della legge Mammì furono obbligati a distruggere il loro materiale perché considerato ormai fuori dal copyright, perché vi ricordo che fin quando le radio erano libere, anche trasmettere musica, per quanto fosse in forma piratesca, non era soggetto ad esempio al controllo, non era soggetto al copyright. Quindi una volta che il diritto di copia è stato legittimato da delle leggi, furono obbligate a distruggere determinate trasmissioni. Quindi è molto difficile recuperare la memoria storica originale, ma non impossibile. In tante regioni c'è tanta gente che mi scrive che hanno dei nastri, delle cose, anzi io personalmente la mia idea era che On the Road andasse oltre, quindi una volta finito il percorso del film diventasse un vero e proprio sito, un vero e proprio archivio dove poter rinviare le trasmissioni e metterle fruibili a tutti. anche perché quella stagione in particolare, stiamo parlando della Calabria, e alcuni di quei protagonisti hanno poi continuato un loro percorso radiofonico indipendente. Tantissimi di quell'epoca diventarono degli speaker di professione. Abbiamo pure nel film, per esempio, il duo comico Battaglia e Miseferi, cito loro, ma giusto in rappresentanza di tutti gli altri personaggi, che iniziarono da una piccola radio libera del Reggino, di Reggio Calabria, e sia l'emittente sia loro poi hanno avuto la fortuna di diventare delle realtà molto più solide. Penso a Radio Touring 104, che in Calabria è un'istituzione, e penso a loro che sono arrivati fino alla Compagnia del Bagaglino a essere due grandi attori, e loro facevano degli sketch amatoriali lì nella piccola radio di Reggio Calabria. Senti Massimo, da oggi nelle sale come l'avete pensata? Quante sale raggiungerete? Allora guarda, la distribuzione si chiama distribuzione indipendente, sì. Invece il Laboratorio Bizzarro è il nostro favoloso ufficio stampa che sta facendo, entrambi stanno facendo un ottimo lavoro. Le sale sono disponibili sul sito www.onde, scritto in italiano come quelle radio, onderoadfilm.it, e noi contiamo di raggiungere tutta la penisola. Anzi, se c'è qualche gestore illuminato o che vuole da subito accogliere il nostro film, noi siamo qui, basta contattarci. Contiamo di arrivare ad un'ottima tiratura di sale da qui ai prossimi mesi. Già partiamo con un 10-15 sale in tutta Italia, ma contiamo di arrivare a oltre le 40. Quindi, bene, per un film indipendente come può essere il mio, grazie già allo sforzo produttivo di chi lo ha fatto, che ringrazio, quindi all'associazione Agri, alla produzione, ma soprattutto grazie a questa distribuzione che ha creduto nel progetto e si sta davvero dando tanto da fare, credo che sia un bel esempio di cinema indipendente. Quindi noi che piccolini affrontiamo come le radio di allora, come vuoi anche Onda Rossa nel suo passato, e nel presente, perché non continua a non fare pubblicità ed essere una radio libera e indipendente, eh? Capito, quindi potete ben capire voi prima di tutti che noi siamo piccoli contro un mondo di grandi, però dai, con l'affetto degli spettatori che appunto invito al cinema, anzi stasera chi è su Roma per esempio c'è la prima con me e tutto il cast al Cinema Tiziano alle ore 21, c'è un evento importante anche a Varese, un multisala con Fabrizio Quagliotti dei Rockets e i fan dei Rockets. Però poi ripeto, siamo in tutta la penisola, basta consultare il nostro sito www.onderoadfilm.it. Massimo, t'abbraccio e alla prossima. Grazie mille a te. Ciao. Massimo Ivan Falsetta, regista del docufilm On the Road, in uscita in sala oggi giovedì 26 marzo. Fernando Muraca, regista del film La Terra dei Santi, in uscita in sala anche questo oggi giovedì 26 marzo. Fernando, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, sono in metro, spero che mi sentiate bene. Ti sentiamo bene per il momento. Allora, restiamo in Calabria perché parliamo questa volta non di Radio Libere ma di 'Ndrangheta. In che termini, Fernando? Beh, raccontiamo queste cose attraverso il punto di vista delle donne che subiscono la violenza della mafia. Cioè, donne che sono schiacciate fra mariti che latitanti, che le obbligano a portargli i bambini nei loro covi, facendoli chiamare con un altro nome affinché i piccoli non li tradiscano a scuola. Ecco, questo è l'orizzonte dentro il quale noi raccontiamo la nostra storia. Mm-hmm. Oh, a quello che ne so, insomma, è una delle organizzazioni mafiose insieme alla mafia, alla camorra, ma l'Ndrangheta è quella più difficile da affrontare perché lì i vincoli familistici e di sangue non permettono ad esempio nessuna delazione, nessun infiltraggio, nessun pentimento. Sì, perché l'iniziazione mafiosa cambia la natura stessa delle persone, le trasforma, perché quando fanno il loro giuramento perdono il libero arbitrio, giurano di essere fedeli, di mettere prima di ogni cosa l'organizzazione, la mettono di sopra del loro stesso sangue, quindi anche degli eventuali figli che dovrebbero avere in futuro. È difficile uscire da un'organizzazione così, perché il costo è la vita, per se stesso e per i propri familiari. Fernando, come nasce la Terra dei Santi? Allora, la Terra dei Santi nasce dal desiderio, io sono calabrese, dal desiderio di raccontare la mia terra per quella che è stata un tempo e che potenzialmente è. C'è un aneddoto che posso raccontare. Praticamente la Calabria anticamente era conosciuta come la terra dei santi, perché il maggior numero di monasteri greco-ortodossi che costellavano Calabria ha generato persone di grandissimo valore. Il maggior numero di santi greco-ortodossi sono calabresi. Oggi invece la Calabria è conosciuta nel mondo come la terra dei santisti, cioè dei mafiosi, cioè di coloro che sono battezzati sia nell'Andrangheta che nella massoneria, che è un'altra cosa completamente. Per cui il film vuole far riaffermare il popolo calabrese delle loro origini, della loro storia, che è una storia millenaria straordinaria. Senti, per quanto riguarda ecco questa triplice scelta femminile protagonista, uno sguardo appunto di genere e modifica anche il modo di vedere il problema? Beh sì, perché normalmente diciamo i rotocalchi, le news, la cronaca ci racconta un'organizzazione completamente governata e gestita dagli uomini, ed è così perché tutti i traffici sono gestiti dai maschi, il potere è in mano agli uomini, le decisioni strategiche, però l'educazione dei bambini è in mano alle donne, il loro sviluppo affettivo, il modo di concepirsi nel tempo e nello spazio della propria vita. Quindi le donne sono uno strumento straordinario per ritrovare la speranza per il popolo calabrese, perché se loro cambiano le loro intenzioni profonde e decidono di non dargli più i figli, l'organizzazione è minata alla radice, alla base. Senti Fernando, per lo sviluppo della sceneggiatura, anche rispetto alla questione 'Ndrangheta, come vi siete mossi, come vi siete documentati? Beh, io ho scritto il film insieme a Monica Zatelli, che aveva già scritto i 100 passi, come tu sai, e quindi è avvezza all'argomento. E la prima cosa che abbiamo fatto è studiare gli atti giudiziari, quello che stavano facendo le procure, ma anche le storie delle donne e degli uomini che si erano ribellati, la storia dei clan, ecco, tutto un lavoro di documentazione che è durato anni, perché la genesi di questo film è lontana e abbiamo cominciato a scriverlo nel 2011, quindi potete immaginare quanto lavoro c'è stato dietro di ricerca e anche come i fatti che sono accaduti si sovrapponevano anche alle cose che noi stavamo scrivendo, perché questa idea della patria potestà, che poi è stata messa in pratica più volte, noi ne avevamo trovato solo una traccia nel 2008 di un giudice di Reggio Calabria, e invece in tempi recenti il giudice di Bella del Tribunale dei Minori l'ha messa in pratica, ma già quando avevamo fatto il film. Quindi ecco, il lavoro di documentazione è servito da spunto, ma anche intuendo quello che germogliava nella realtà degli operatori sui luoghi appunto dove l'Andrangheta ha le sue radici più profonde. Ecco, visto che comunque è la tua terra, rispetto all'Andrangheta ma anche alle speranze di un futuro diverso per quanto riguarda soprattutto le giovani generazioni, come la vedi anche rispetto allo sforzo che hai impiegato nella realizzazione del film? Ma io penso che Falcone lo diceva, no? Che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani hanno un inizio e una fine. Anche l'impero romano è caduto, no? Quindi occorre ritrovare la speranza che questo fenomeno è un fenomeno di passaggio, magari dolorosissimo, magari ci vorrà del tempo, però è possibile. E la speranza maggiore è nell'educazione, nella formazione, nel dare la possibilità alle persone di cercare lavoro onestamente invece di dover andare a chiederlo ai mafiosi. Quindi lo Stato deve fare la propria parte attraverso tutte le istituzioni e gli attori culturali. Bene, io ti ringrazio Fernando. Da oggi nelle sale in quante copie la Terra dei Santi? Siamo con una rettina di copie e siamo andati a cercarci le sale una a una con una funzione straordinaria, io li chiamo i tre moschettieri, sono tre giovani che praticamente distribuiscono il loro primo film. Siamo a macchia di leopardo in tutta Italia a Roma siamo al Cinema Aquila, a Milano al Palestrina e poi Messina e tante altre città. Benissimo, allora speriamo bene, un abbraccio e alla prossima. Grazie, buona trasmissione, ciao. Ciao Fernando, ciao. Ciao. Eccoci con Giacomo Agnetti, regista del documentario Low Cost Flox, una delle proposte del mese di distribuzione dal basso. Giacomo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, spiegaci questo titolo, per soprattutto per chi ignora di cosa si tratti. Ma volevo... Low Cost Flox sta per... voleva mettere insieme i voli low cost e i flox, che sono questi... sono praticamente gli stormi di uccelli che si spostano nel cielo, che stanno uniti appunto come gruppi di turisti, spesso per evitare problemi o comunque per proteggersi. Quindi volevo un po' fare una comparazione tra comportamento animale e comportamento degli esseri umani quando sono in vacanza. Qual era l'idea di fondo del film, del documentario, Giacomo? Ma inizialmente volevo... puntare un po' il dito contro appunto questo genere di modo di fare turismo, che è il viaggiare in gruppo. Poi però, facendo le interviste, mi sono reso conto che stavo sbagliando completamente, perché la maggior parte delle persone che intervistavo, che viaggiavano in gruppo appunto, erano o anziane o non conoscevano la lingua, oppure erano state mai consigliate, magari gli dicevano che arrivando, non so, in Italia, in Spagna, sarebbero state derubate appena scese dall'aeroporto. Quindi poi mi sono reso conto che in realtà per loro era l'unica maniera di viaggiare, ed è stato anche bello cambiare completamente rotta durante la lavorazione del documentario. Quindi poi si è stravolto il tutto, non è stato più un documentario di accusa, ma un documentario che raccontava che cosa significasse viaggiare in quest'epoca. Ecco, cosa è cambiato nel modo di viaggiare, soprattutto a livello di massa? Beh, fino a 20 o 30 anni fa, quando non c'erano i social network eccetera, sicuramente c'era un immaginario che era diverso. Se prima viaggiatore mitico poteva essere Bruce Chatwin o Walter Bonatti, insomma questi personaggi che stavano lontani da casa per anni, adesso vediamo tramite le fotografie dei social network che improvvisamente il nostro vicino di casa è andato a fare una settimana di vacanza ed è in mezzo alla giungla, oppure andare a sciare non so, in Antartide. Succede sempre più spesso, e questo modifica molto il nostro immaginario, perché lo riteniamo sempre più possibile, tant'è che il volume di persone che viaggiano aumenta veramente in maniera sproporzionata ogni anno. E quindi sostanzialmente è cambiato il modo, perché è più veloce, si viaggia più frequentemente e più spesso, però appunto i viaggi sono più corti. Sì, viaggiamo di più, ma torniamo anche di più, come dice uno degli intervistati. Ecco, come hai svolto la tua ricerca? Quante interviste hai realizzato? Beh, sono veramente tante, sono un centinaio, e la ricerca è stata, cioè sono andato diciamo da solo, volevo fare un documentario un po' on the road, e soprattutto visto che dovevo fare così tante interviste non volevo una truppa al seguito, e quindi andavo appunto così, cercavo le persone nei punti di maggiore flusso turistico, oppure anche mentre viaggiavo incontravo appunto persone che, non so, attraversavano l'Africa in bicicletta, quindi che erano in viaggio in altre maniere. E man mano mi approcciavo, la maggior parte delle persone mi chiedeva se volevo dei soldi, ma io cercavo di spiegare, anzi la cosa più facile era dire che era un progetto universitario, perché così la gente non si spaventava quando mi avvicinavo per intervistarli. E sì, la cosa che ho notato è che alcune persone, cioè quelli che viaggiano in bicicletta oppure a piedi e che sono via per molto più tempo, parlano e conversano in maniera molto più efficace, molto più profonda, mentre le persone che sono semplicemente in vacanza, che magari puoi incontrare nei villaggi turistici, è come se si fossero portate dietro casa, quindi hanno tutto con loro, hanno la loro musica, i loro oggetti, e sono anche più frenati nel parlare, quindi nel condividere quello che provano, si sono anche meno analizzati forse. Ecco, in diciamo più o meno in percentuale rispetto a chi viaggia, quant'è il senso di svago e vacanza, appunto il senso invece di avventura, la voglia di conoscenza, in che proporzione sono cambiate nel tempo questi elementi? Credo che sia veramente impossibile da dire, perché ci sono talmente tante tipologie di persone, e la cosa che colpisce è che per un pensionato che va a fare un viaggio magari semplicemente in Spagna, un americano che va a fare un viaggio in Spagna, per dire, sono due nazionalità a caso, può essere un viaggio tanto avventuroso quanto per un ragazzo che va a fare 6 mesi in Sud America da solo con lo zaino in spalla. Ecco, la cosa più incredibile è che c'è questa concezione diversa, per cui sentendo così uno dice vabbè, però il viaggio di quello che va in Sud America è sicuramente più avventuroso, e da un lato sì, però in realtà poi le modalità di viaggio, di spostarsi, sono più o meno le stesse, perché anche quelli che partono e vanno con lo zaino in spalla e l'Only Planet alla mano, e magari si spostano in autostop, però poi alla fine, quando sono dall'altra parte del mondo, finiscono per cercare i propri simili anche nel momento di pausa dal viaggio, quindi si ritrovano negli ostelli dove sono tutte le stesse persone, sono tutte state consigliate dalla Lonely Planet, quindi si parte per cercare il diverso, ma si finisce per cercare il proprio simile. Senti, che tipo di distribuzione, insieme a distribuzioni dal basso, hai pensato, oltre a questa a questo fatto che partecipo comunque al progetto distribuzioni dal basso, e quindi nel mese di marzo sei una delle proposte, e poi cosa succederà? Hai un tuo, per esempio, un tuo sito internet, un tuo luogo per il documentario in rete? Ma in realtà adesso stiamo guardando con distribuzioni dal basso, siamo andati online diciamo da non più di una settimana, e quindi vediamo sicuramente come va, e il documentario è anche iscritto in tanti festival internazionali, e quindi stiamo un po' a vedere cosa ne pensano i vari selezionatori, vediamo se viene preso o meno. E poi diciamo che durante questi festival spesso ci sono dei mercati in cui è possibile parlare con diverse persone, quindi diciamo io l'ho fatto perché volevo farlo, mi occupo sempre di audio video, di pubblicità e soprattutto di animazione stop motion, però volevo fare una cosa che non c'entrasse niente con il mondo con cui lavoro tutti i giorni, volevo fare una cosa libera, e quindi sinceramente la distribuzione, spero che attraverso distribuzioni dal basso si possa distribuire in maniera economica e un po' per tutti, alla portata di tutti. Ho un'altra curiosità che mi veniva adesso, tornando al documentario. Immagino che in questo periodo, essendosi creata comunque una rete globale con tutti gli strumenti che abbiamo, si sono, immagino, anche diffusi i viaggi in terre più lontane. Sì, si è spostato sempre di più l'obiettivo, diciamo, perché c'è la possibilità di farlo. Ed è interessante uno scritto di Franco Lacecla, che è uno degli autori che ho consultato per fare il documentario, che dice che c'è questo commercio del perdersi, che è molto interessante, perché le agenzie di viaggio cercano sempre di più di offrire la possibilità alle persone di perdersi, perché adesso è veramente difficile con i cellulari, la localizzazione GPS, siamo sempre connessi, e quindi diventa davvero complesso. Bene, allora io rimando, per chi volesse saperne di più, chiaramente al sito internet di distribuzioni dal basso. Giacomo, io ti dico anche in bocca al lupo, un abbraccio e alla prossima. Allora, grazie mille e complimenti per la trasmissione, è andata avanti così. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Giacomo Agnetti, regista del documentario Low Cost Flox, una delle proposte del mese di distribuzioni dal basso. Eccoci con Francesco Barilli, regista del documentario Poltrone Rosse, Parma e il cinema. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buondì. Come va? Bene. Tra l'altro, parte di influenza, bene. Sei a Roma, se non sbaglio, o sei già ripartito? Sono a Roma, sono a Roma, insomma, io vivo a Roma. Ah, vivi a Roma, pensavo. Sì. No, vivo a Roma e a Parma quando ci lavoro. Ok, quindi però sei originario di Parma. Io sono, sì, sono di Parma da tanti secoli. E quindi sai bene di cosa hai parlato in Poltrone Rosse. Raccontaci un po' di questo documentario. Ma insomma, io a Parma ho fatto parecchi documentari, ho fatto La vita di Guareschi, La vita di Verdi, e 4 anni fa ho cominciato a capire che c'era una storia cinematografica molto interessante. In più, avendo fatto il film di Bertolucci come protagonista prima della rivoluzione, quest'anno era l'anniversario del film, 50 anni, e allora con Michele Guerra, che è un docente dell'Università di Cinema, giovane, volto e gamba, abbiamo messo in piedi. Per 3 anni mi hanno detto di no, poi di colpo hanno detto di sì. È stato un lavoro lungo, complicato, ho scoperto tante cose che non conoscevo, e difatti non è un caso che mi hanno invitato alla Festa di Venezia, ai Nastri d'Argento, ho fatto proiezioni, insomma piace molto, perché dura 1 ora e mezza, però c'è una storia abbastanza incredibile per una città di provincia. Ecco, per chi ci ascolta, appunto, parliamo un po' di Parma. Perché c'è questo rapporto così intenso con il cinema e con certo cinema? Ma dunque, allora, ho scoperto che bastano 5 persone, 7, 4, diciamo, per far diventare una città colta e molto interessante. Abbiamo scoperto che c'era Attilio Bertolucci, Pietro Bianchi, c'erano i fratelli Fornari, un gruppo di persone che non solo hanno fatto cinema a Parma senza Roma, scritti, diretti, prodotti, girati, tutti a Parma. Hanno fatto, le stesse persone hanno creato le prime riviste cinematografiche d'Italia, c'era il papà di Verdone che insegnava a Parma. Sì. Insomma, voglio dire, in questa città piccola, questo piccolo impero ormai morto, nasce questa voglia di fare cinema, di cultura, e queste poche persone creano questa atmosfera incredibile. Infatti vengono da Firenze, Guanda, l'editore che è a Modena, si trasferisce a Parma. Parma diventa un centro intellettuale colto, dinamico e effervescente. Però immagino che debbano esserci state delle condizioni affinché tutto questo succedesse, e immagino anche che comunque c'è stata una risposta della città a questo impulso dato dai cineasti. Beh, non è dubbio, perché se tu crei delle cose interessanti, poi la gente ti segue. Se non fai niente, non ti segue. Non c'è dubbio. Infatti, quando parte Pietro Bianchi, scusate, ma c'è una voce oggi. Pietro Bianchi parte per Milano, Attilio Bertolucci parte per Roma, i Fornari mettono di fare il cinema, cioè la città muore, c'è un buco, proprio un buco vuoto, fino all'arrivo della ragazza con la valigia di Zurlini, scritto da un parmigiano che è Enrico Medioli, bellissimo film con la Cardinale Jacques Perrin. Poi arriva La parmigiana con Pietrangeli, dove lì faccio già una parte io piccola. E poi arriva Bernardo Bertolucci con Prima della rivoluzione, cioè vengono 3 capolavori in fila, sì. Uno dopo l'altro, e poi c'è Monicelli che fa un episodio a Colorno, che è vicino a Parma. Sì. Mm-hmm. Quello è il cuore di tutta la vicenda. Dopodiché sono partiti, hanno fatto tanti film più brutti, però diciamo che il nucleo vero è quello lì. Tutto poi nasce dai fratelli Lumière, che uno dice cosa c'entrano. Centrano perché la prima viene fatta a Parigi, la seconda viene fatta a Parma, nel cinema Rain, e in quel momento, e da lì è partito un delirio. Girano I condottieri, che è un colossal all'americana, cioè sono le battaglie che sembrano girate a Ridley Scott, tutto girato a Torre Chiara, che è un castello lì vicino, che poi ci girerà Bernardo, poi Bernardo torna. Ma la cosa interessante è, sono i personaggi che partono da Parma e vanno a Roma a fare il cinema. Sì, siamo, perché ce l'ho anch'io, siamo tanti, i fratelli Bazzoni che ormai sono dimenticati, che invece hanno fatto film, scritto film. Storaro, che è di Roma ma nasce a Parma come lavoro, perché lui arriva e fa prima della rivoluzione come assistente, e io conosco Camillo Bazzoni, e allora noi tre per anni facciamo i documentari verso Salso Maggiore, quei corti che si facevano allora che andavano insieme al film, e poi Toraro diventa il direttore delle luci di Bernardo e fa L'uomo ridicolo, 900, se vedi c'è una storia. E poi tutti gli attori, partiamo dalla Borboni, che è di Parma, da Benassi che è di Parma. Ecco, tutti questi nomi che stai snocciolando mi fanno venire in mente una domanda più in generale: il rapporto tra Parma e la cultura allora? Beh, insomma, sai, allora, il problema era che Guareschi, Bertolucci, Pietro Bianchi insegnavano tutti e tre a Maria Luigia, sì, e Zavattini. Sì. Zavattini, anche lui, da Luzzara non va a Reggio, ma va a Parma. E lui odia il cinema, ama solo il teatro. A Tino Bertolucci gli fa vedere La febbre dell'oro e lui decide che la sua vita sarà il cinema. E guarda che cinema! No, e voglio dire, io sto racconto brevemente, ma gli stessi critici o la stessa gente che era a Venezia, che l'hanno visto, mi dicevano: ma non è possibile. E dico: guarda, è tutto vero, cioè, è questo è. Allora, al Maria Luigia, che era un collegio, diciamo, abbastanza chic, di gente non colta, ma insomma propensa, insegnano Proust, insegnano la letteratura americana, insegnano Fritz Lang, insegnano la Crawford, insegnano Billy Wilder, il grande cinema americano, mentre insegnano letteratura. Mm-hmm. Sì. E allora molti giovani, Enrico Medioli, che era studente di Attilio Bertolucci, diventa un grande sceneggiatore che è di Parma. Capito. Cioè c'è questa catena che si sviluppa. Poi dopo gli altri cittadini non lo so, forse mangiavano spesso, ma però quando tu spingi la gente, sì, poi sì, ti sì, segue, sì, okay. Quando ti invita, no? Sì, sì, sì, metti sì. Il sangue, oggi vai a Parma è una tragedia. Io adesso sto preparando la storia del Tarpeggio e mi hanno detto: ma perché lo fai? È morto. Schiacciosi, sono morto. E allora facciamo rivivere. Insomma, poi io sono di Parma e mi sgridano perché dicono che io penso a Parma. Io non penso a Parma, sono invecchiato, la mia famiglia è tant'è che c'è una mostra di Bruno Barilli, che è il fratello di mio nonno, qui alla Biblioteca Nazionale di Roma, molto bella. Era un altro periodo, erano più colti, non lo so. Mm-hmm. Oggi non lo so, insomma, vedo una grande tristezza. Quando ho fatto il film si sono tutti eccitati. Perché senti, ho fatto una proiezione all'auditorio Paganini dopo Venezia con 900 persone. Sì, un evento. Il sindaco mi diceva: non verrà nessuno, cioè, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio. E poi sono 900 persone, non sono poche. Sì. Francesco, il tuo documentario è stato attenzionato ai nastri d'argento proprio dedicati al documentario. Volevo sapere che futuro c'è rispetto alla fruizione pubblica. Dunque, la RAI mi ha detto che non è idoneo. Ah, bene. Così mi hanno detto, devo riportarglielo perché l'hanno perso. E idoneo non so cosa vuol dire. Io sono documentario, forse non faccio parte di una cricca, a parte che ho lavorato in RAI 30 anni. Ho visto Minoli e tutti quanti arrivare in pantaloni con delle buste di raccomandazioni. La RAI oggi è un disastro. Comunque, però adesso vediamo. Vediamo. Insomma, l'ho mandato a dei festival. Ai nastri d'argento è piaciuto molto, mi ha dato una targhetta con la data sbagliata. Spero lanciata verso il futuro. Sì, no, dell'anno scorso. Dell'anno scorso. Comunque, insomma, la Laura Delicoli gli è piaciuto molto, stava carina, mi ha invitato, poi dopo mi dicevano: il premio era tuo, l'ha dovuto dare a Rondi, cioè, le solite robe. Ci farai sapere comunque, allora. No, beh, ormai i nastri d'argento sono andati. No, no, ci farai sapere rispetto a un'eventuale distribuzione o insomma passaggio televisivo. Dunque, l'ho mandato a Sky mi ha detto che non è perché loro comprano 50 documentari, sono tutti uguali, li fa una ditta sola. Questi, io sono outsider, sono solo, l'ho fatto io, l'ho prodotto io con un po' di sponsor parmigiani. E, insomma, non, l'Italia va avanti così, non cambierà mai. anzi peggiorerà sempre di più. Francesco, io ti abbraccio e a risentirci presto. Ecco, io spero che ti farvelo vedere in radio. Bene. Altre proiezioni. Bene. Visto che lo posso dire oggi e piace molto. Bene. Si diverto e tutto quanto. C'è un Franco Nero strepitoso che si tolto non è così pimpante. E qui fa abbastanza da ridere. Sono tirato fuori Lanfranchi che ha 94 anni, che adesso mi ha chiesto l'aria che tira di usare il pezzo perché è incredibile quello che dice di Parma. Insomma. Speriamo allora di vederlo su grande schermo. Speriamo. Un abbraccio. Speriamo. Ciao Francesco. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Francesco Barilli, regista del documentario Poltrone Rosse, Parma il cinema, e con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo dalle 14 alle 15 con Visionari, la scaletta e le informazioni sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.